in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa dei quotidiani italiani che oggi hanno aperture un po' diverse rispetto a ieri in cui erano forse più uniformi. Cominciamo dal Corriere della Sera che ha il titolo principale di un'inchiesta di Fiorenza Sarzanini su quella che viene chiamata fuga dalle tasse, la rete estera. Infatti Fiorenza Sarzanini, che è super esperta di questioni giuridiche e anche fiscali per il Corriere della Sera e anche giuridiche, come dicevo, ha preso questo rapporto della Guardia di Finanza che svela la mappa dei conti, case e società degli italiani, già contestati dall'Agenzia delle Entrate, 3,8 miliardi. Vi leggo la prima parte di questo, il richiamo in prima pagina di questo lungo articolo di Fiorenza Sarzanini che trovate poi a pagina 2 e 3 del Corriere della Sera. Isole Vergini, Bermuda, ma anche Olanda e Delaware. Sono queste le mete di imprenditori e società italiane che nell'ultimo anno e mezzo hanno evaso il fisco per 3 miliardi e 800 milioni. Una cifra record, raggiunta grazie alle operazioni illecite effettuate attraverso aziende e prestanomi esteri, ma anche non versando all'erario il giusto introito derivante da operazioni immobiliari e ristrutturazioni. Quindi l'eterno problema, l'eterna condanna che torna dell'Italia, dell'evasione fiscale, che è forse la vera zavorra di questo paese. Dalla prima pagina del Corriere della Sera vi segnalo anche un'intervista a Maurizio Lupi, il ministro per le infrastrutture e dei trasporti, che ricorderete ieri quasi tutti i giornali titolavano sulla dichiarazione di Renzi, che diceva con onestà il bonus di 80 euro che è stato dato in maggio ai lavoratori che avevano redditi molto bassi, per ora non posso garantire verrà esteso come in un primo momento promesso a pensionati e partite IVA. E Lupi oggi, che è ministro del suo stesso governo ma non è del PD bensì del nuovo centrodestra, dice che questo bonus va esteso. Il problema naturalmente sono le coperture, che il bonus idealmente vada esteso, forse possiamo essere d'accordo tutti. Sempre dal Corriere della Sera, dalla prima pagina, vi segnalo un'intervista a Dario Nardella, che è il successore di Matteo Renzi come sindaco di Firenze, è stato per suo vice per tanti anni, e la sintesi che Aldo Cazzullo fa dell'intervista appunto al nuovo sindaco di Firenze è: contro i no, meglio le urne. Ricorderete che ieri il Corriere della Sera aveva un sondaggio secondo il quale metà degli italiani preferirebbe a questo punto il voto anticipato al proseguimento di una legislatura dove naturalmente il governo è espressione di una maggioranza, diciamo di una forza elettorale espressa però dalle elezioni europee del 25 maggio e non dalle politiche, e da qui l'esigenza secondo appunto questo sondaggio di andare a elezioni anticipate. Ma veniamo alla prima pagina della Repubblica, che ha un titolo un po' diverso: caccia 20 miliardi, il governo pronto a far salire il deficit. Ma ci sarebbe questo, sapete, anche nei giorni scorsi si è paventato, anche se poi Renzi stesso ha smentito, di una manovra aggiuntiva, correttiva in settembre-ottobre, perché appunto c'è un fabbisogno aggiuntivo di 20 miliardi. Si punta molto sulla spending review, ma avete seguito sicuramente tutte le polemiche sulla spending review, sul commissario Cottarelli che ha detto: è inutile che sostanzialmente che io continui a segnalare gli sprechi se poi tutti i risparmi vengono usati per alimentare nuova spesa pubblica, e quindi sostanzialmente bisogna sicuramente trovare nuove risorse, ma bisogna anche capire come, senza si spera aumentare di nuovo la pressione fiscale o sulle pensioni o sui redditi fissi, che come dicevamo per via dell'evasione sono poi le uniche risorse certe quando un governo ha bisogno di fondi aggiuntivi. Vi segnalo dalla prima pagina della Repubblica un articolo divertente, che la notizia la trovate su tutti i giornali, ma l'articolo più divertente forse l'ha scritto Guia Soncini, parte appunto dalla prima di Repubblica e continua a pagina 22: chi ha paura del velo e del tanga sui virilissimi bronzi di Riace. C'è stata infatti una campagna pubblicitaria dove i bronzi di Riace sono stati spiritosamente rivestiti un po' come delle drag queen da un fotografo francese, e la sovrintendente sovrintendente calabrese che quindi vigila anche, possiamo così dire, così sui bronzi di Riace, ha gridato allo scandalo. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo un'altra apertura economica. Naturalmente qui la questione è la cassa in deroga. Il ministro del lavoro Poletti ha recuperato 320 milioni, 92 però vengono dai fondi interprofessionali, tutto approfondito sul Sole 24 Ore, ci sono 147.000 lavoratori a rischio. C'è un'altra, questa dote sarebbe da 1,7 miliardi per il 2014, quindi una buona notizia, appunto, perché purtroppo questo ammortizzatore sociale è ancora molto necessario in tempo di crisi, però come sempre quando bisogna recuperare risorse poi bisogna anche capire come prenderle, e allora si ripropone per esempio il problema sulle deroghe per gli statali alle pensioni. È in corso un braccio di ferro, l'approfondimento lo trovate sulle pensioni appunto degli statali e sulla, che sono poi collegate alla riforma presentata dal ministro Madia, lo trovate alle pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore con un commento a pagina 12. Come sempre alla domenica c'è un intervento dell'arcivescovo di Chieti Vasto Bruno Forte, oggi è dedicato a Gerusalemme, terra santa e speranza dei giovani, in cui l'arcivescovo racconta di un viaggio che aveva programmato insieme a tanti giovani a Gerusalemme, che ha dovuto rimandare per via della guerra, ma è un'occasione per riflettere sull'importanza di Gerusalemme, e vi leggo solo le ultime righe del suo intervento che continua poi a pagina 6. Anche per questo a tutti deve stare a cuore l'augurio del Salmo 121. Chiedete pace per Gerusalemme, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: su te sia pace, per la casa del Signore nostro Dio chiederò per te il bene. E questo ci porta alla prima pagina della Stampa, che titola proprio sulla guerra in Medio Oriente: Israele inizia il ritiro da Gaza, prima però distruggeremo i tunnel. Così ha dichiarato il primo ministro Netanyahu, che ha annunciato che ci potrà essere una ricostruzione del processo di pace, dei rapporti, solo con il disarmo di Hamas. Però Hamas ha poi risposto: la lotta continua. Dalla prima pagina della Stampa vi segnalo una fotonotizia che richiama un approfondimento a pagina 4 e 5 e riguarda Berlino. La foto è quella di Berlino, e di una foto di edifici sulla Sprea, e il titolo è: la nuova Berlino, calamita dei giovani italiani. Sono 26.000 i nostri connazionali nella capitale tedesca. Artisti, ricercatori, designer sono gli immigrati di oggi. Boom di arrivi a partire dalla crisi del 2007. Le ragioni naturalmente sono tantissime: la facilità di trovare lavoro, l'accoglienza, ma anche il costo basso degli affitti. Appunto, trovate questa cronaca di quella che viene definita l'invasione degli italiani, e l'America forse per noi ora è Berlino, lo trovate appunto a pagina 4 e 5 della Stampa. Sul Messaggero parlavamo di questo caso pensioni, è l'apertura scelta dal Messaggero: si riapre il caso pensioni, le uscite anticipate dei professori, e sulle uscite anticipate dei professori la ragioneria dello Stato ha bocciato la deroga. Perché? Perché quelle coperture di cui parlavamo sono insufficienti, e torna l'ipotesi di un prelievo sugli assegni più alti, le pensioni d'oro, che poi, come sapete, se andiamo a ben guardare, d'oro non sono poi così tanto, sono comunque pensioni spesso poi hanno avuto i vantaggi del sistema retributivo e non di quello contributivo, però sono tra quei famosi diritti acquisiti che è sempre pericoloso toccare. Comunque, quando le coperture non ci sono, bisogna trovare delle soluzioni, e vedremo nelle prossime settimane quali saranno quelle escogitate dal governo Renzi e dai suoi ministri. La Gazzetta dello Sport ha un gioco di parole come apertura: Veni, Vidic, Vici, perché Vidic ha fatto uno dei due gol dell'Inter ieri, impegnata nelle amichevoli, in questi tornei estivi, in questo caso a Filadelfia. L'Inter ha battuto la Roma, Inter bella e cattiva, Roma battuta 2-0. E poi naturalmente una ripresa della questione Pantani, che di cui sentiremo molto parlare, l'avete sentito parlare anche nei GR, ieri era un'esclusiva della Gazzetta dello Sport e della Repubblica, oggi ne parlano tutti. L'ipotesi, come sapete, è quella che nel 2004, quando Marco Pantani morì, si disse che fu overdose. La madre ha sempre detto: non ci credo, e ora un perito, in base alle ferite sul corpo di Pantani, ha un indizio, per quel che posso capire io, veramente quasi inequivocabile, cioè il fatto che ci fosse troppa cocaina nel suo corpo, è impossibile da ingerire, diciamo, nei modi che conosciamo. Ecco, allora potrebbe essere assassinio, questa è la omicidio, questa è l'ipotesi dei PM. La prima pagina di Libero: gli insegnanti del Sud cacciano quelli del Nord, è un approfondimento sulle graduatorie, sul sistema delle graduatorie. Avrebbero quelli del Sud punteggi più alti grazie a un trucco, e scalano appunto le graduatorie. Secondo Libero, il governo Berlusconi aveva trovato un rimedio, un TAR ora lo ha bocciato, e i prof settentrionali perdono il posto. La prima pagina del giornale: Renzi si fida solo di Berlusconi. Sapete che ieri è stato ribadito dal Premier questa importanza di mettersi d'accordo sulle riforme, dopo quella istituzionale del Senato, adesso anche quella sulla legge elettorale. Il Premier ha elogiato, scrive il giornale, Berlusconi. È importante fare la riforma elettorale con lui e, secondo il giornale, questo è il giusto riconoscimento a un'opposizione seria. La prima pagina del manifesto: Generazione Gaza, la foto è quella di una macchina con dentro nel baule dei bambini, e naturalmente presumibilmente sono in fuga o comunque stanno cercando di proteggersi dalle bombe. Viene riassunto in questo caso il bilancio più recente delle vittime: in 24 ore 120 palestinesi solo a Rafah, finora sono 1655 i morti, finora vuol dire da quando è iniziata l'offensiva di Israele, e per l'UNICEF almeno 296 sono bambini. Il premier Netanyahu ha citato anche dal manifesto: l'offensiva va avanti fino alla completa distruzione dei tunnel. Hamas insiste: non abbiamo catturato il soldato. Sapete che la questione di ieri era questo soldato israeliano che sarebbe stato catturato da Hamas la cui sorte in realtà non è ancora, non si capisce bene se appunto sia stato catturato oppure sia vittima dei combattimenti. Ultimissima segnalazione prima della pausa per il traffico: il titolo del Fatto Quotidiano: attenti a quei due sono Renzi e Grasso, cambiano la Costituzione con metodi illegali. E l'accusa naturalmente è quella che il Presidente del Senato stia usando un po' dei cavilli per portare avanti l'agenda serratissima dell'approvazione di alcune leggi prima della pausa estiva. Noi invece ci fermiamo un attimo per il traffico. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli. Dopo aver scorso un po' le prime pagine dei giornali, vi segnalo velocemente alcuni articoli interni e poi passiamo ai supplementi culturali, che oggi sono molto ricchi e spero abbiate tempo di leggerli con attenzione. Dal Corriere della Sera una pagina intera dedicata all'Etiopia, un reportage di Alessandra Coppola: l'Etiopia riscoperta ora fa concorrenza all'Oriente. Viaggio nelle industrie di Addis Abeba tra operaie pagate $50 al mese, imprenditori turchi e cinesi. È l'ultima frontiera del tessile low cost, ma l'Italia è la grande assente. L'Italia naturalmente avrebbe una grande possibilità di rapporti facilitati, diciamo, con l'Etiopia e magari anche con l'Eritrea. L'Etiopia ha una grandissima tradizione tessile, però Alessandra Coppola ci spiega appunto che, come purtroppo spesso accade, siamo un po' in ritardo e ci stiamo facendo scappare questa opportunità a favore appunto degli imprenditori turchi e cinesi, dove, guarda caso, esistono in Turchia e in Cina le altre due grandi filiere tessili del mondo. Dal Corriere della Sera un aggiornamento sullo scandalo Mose. Ieri abbiamo visto, tra l'altro io ho detto una cosa imprecisa, cioè che Giancarlo Galan, l'ex governatore del Veneto, era agli arresti domiciliari, in realtà è in carcere. Ieri si decideva sulla conversione agli arresti domiciliari, i giudici glieli hanno negati, quindi lui è ancora in carcere, anche se in infermeria perché ha dei problemi medici. Oggi c'è un'intervista a Claudia Minutillo, la sua ex segretaria, che dice: racconta quelli che vengono definiti gli anni ruggenti. Il sistema era quello, non ci sarà mai tempo per indagare e far emergere tutto, molti nomi non nasceranno mai, non usciranno mai, e l'ex segretaria dice: potevamo corrompere politici e giudici. Dalle pagine interne della Repubblica una pagina interessante di Vera Schiavazzi, quella che definisce la carica dei pedoni che arricchisce le città, come appunto questa possibilità di raggiungere a piedi o con i mezzi parchi, scuole e tutti gli altri servizi aumenti il valore delle case, secondo gli ultimi studi addirittura del 3%. Dalla Stampa vi segnalo un approfondimento sull'Istituto di Sanità, che sarebbe sulla carta molto importante e poi in realtà in questo momento ha debiti milionari e sta crollando sotto questi debiti. Il dossier di commissariamento, ci racconta Paolo Russo in questa pagina, parla di soldi in progetti inutili e di nessun controllo, e in realtà sarebbe appunto un istituto che ha un ruolo molto delicato, è un po' l'equivalente della famosa Food and Drug Administration americana, che sapete ha il controllo sui farmaci, su tutto quello che è la sanità, la correttezza dell'operato delle strutture sanitarie e anche delle aziende che si occupano di sanità e di farmaci. La copertina di Macro, che è il supplemento culturale del Messaggero, il sapere dei nuovi sapori, ci spiega questo articolo di Giacomo Dente che grazie alle scienze neurofisiologiche in 15 anni è stato possibile superare la sistematizzazione dei quattro gusti classici, no? Che sarebbero dolce, amaro, salato e aspro. Nel 2008 gli scienziati avevano aggiunto l'umami, che sarebbe legato al glutammato, il principale componente per esempio dei dadi. Ora però i ricercatori della Purdue University stanno studiando il frizzante, l'alcalino, il metallico e il grasso. Poi un approfondimento sui dati sui musei, li avete sentiti anche in questi giorni, i primi risultati delle misure introdotte da Franceschini, dal Ministro della Cultura Franceschini, che ha allungato gli orari e anche deciso che in alcune giornate si entra gratis nei musei. Il Messaggero fa il punto su quello che riguarda Roma: Ostia Antica batte Pompei, la gratuità per la prima domenica del mese, gli orari prolungati il venerdì premiano Colosseo, Uffizi, Palazzo Ducale di Parma. Per gli scavi il Lazio vince sulla Campania. Ma passiamo alla domenica del Sole 24 Ore. Cominciamo come sempre la mia passione, il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si chiama Io, tu, Dio. La citazione è di William Blake: ho cercato la mia anima e non l'ho trovata, ho cercato Dio e non l'ho trovato, ho cercato mio fratello e li ho trovati tutti e tre. Mi ha impressionato, scrive Ravasi, a tal punto da rimanermi infissa nella memoria, una battuta del filosofo francese Emmanuel Levinas: io non so chi sono prima di incontrare te. L'altro è lo specchio che ti permette di conoscere il tuo volto, perché con te condivide l'umanità, l'anima, la mente, la vita. Ebbene, la considerazione sopracitata fa un passo in avanti e ci invita a scoprire nell'altro anche il volto di Dio. A suggerire questa esperienza è quel visionario che fu William Blake, poeta e artista nutrito delle sacre scritture. La sua intuizione è debitrice di una pagina evangelica nella quale Cristo rivela che il suo viso si cela dietro i profili miseri degli ultimi dei nostri fratelli affamati, assetati, stranieri, nudi, malati, carcerati, dal Vangelo di Matteo. È nell'amore autentico che incontri il tuo io, l'altro e Dio. Ma il titolo di copertina è dedicato in realtà a un libro francese di Alain Corbin, che è sugli alberi, quindi l'articolo di Carlo Ossola, Gli alberi che noi siamo. Una frondosa analisi di Alain Corbin ripercorre ramo per ramo, tra amori, saperi, simboli, una delle più potenti metafore della nostra stessa umanità, gli alberi appunto. E invece la rubrica, anche qui settimanale, sempre sulla prima pagina della domenica, del direttore del Sole 24 Ore di Radio 24, Roberto Napoletano, La bellezza e l'amarezza inconsolabile dell'acqua dell'Asinara. L'isola, ex sede di un carcere di massima sicurezza e ora parco naturale, è stata visitata appunto dal nostro direttore, che ne ha ammirato le bellezze naturali e anche di chi era con lui, che appunto racconta dei confronti e dice: ma qui è più bello della Polinesia. È la guida stessa sarda si stupisce, poi però Napoletano constata anche che per alcune cose, per esempio l'arrivo di un acquedotto serio sull'Asinara, che adesso può essere visitata e abitata da ricercatori, come tra l'altro succede in questo momento, per esempio non è ancora successo, e che quindi per quest'isola eccezionale diventa anche metafora dei ritardi di modernizzare l'Italia nel senso buono. In questo caso è una bellezza naturale che non va rovinata, ma semplicemente modernizzata con una cosa molto semplice, che è l'arrivo dell'acqua potabile. A proposito, abbiamo parlato di Franceschini, e allora un approfondimento di Andrea Carandini: il MIBAC ora ha una visione, il Ministero per i Beni Culturali. Le proposte di Franceschini individuano 6 linee di tendenza che disegnano una strategia da verificare sul campo, evitando sia i catastrofismi che gli eccessivi entusiasmi, quindi un'analisi cercando di vedere il bicchiere mezzo pieno per vedere se appunto riusciremo nei prossimi anni a sfruttare quello che viene sempre definito come il petrolio dell'Italia, cioè la cultura, i beni architettonici storici e artistici, ma che poi vengono spesso trascurati, o comunque, pensiamo al caso Pompei, addirittura appunto cadono in rovina. Passiamo, c'è anche un ricordo a pagina sempre sul Domenicale di Gerald Maurice Edelman, che era un evoluzionista, un cervello per Darwin, è il profilo che ne traccia Gilberto Corbellini, è un premio Nobel, aveva preso il premio Nobel nel 72, è scomparso questo biologo. La foto è quella appunto di Edelman, che illustra un modello di anticorpo fatto di perle e ogni perla è un aminoacido, e il Corbellini ci racconta un po' tutte le sue scoperte e anche chi sono i suoi, chi raccoglie il testimone di questo grande scienziato. Passiamo alla lettura, il supplemento del Corriere della Sera, dedicato appunto anche in questo caso alla cultura che esce alla domenica, e vi segnalo alle pagine 2 e 3 un lungo articolo di Alessandro Piperno che si intitola Elogio dell'ipocrisia, molto divertente, dove Piperno prende spunto da tante delle sue letture, e vi leggo le ultime righe, perché naturalmente il tema è quello del lettore che vede l'ipocrisia nei personaggi che incontra nelle sue letture. E ecco ciò che distingue la vita dalla letteratura: la letteratura aborrisce l'ipocrisia, la vita non può farne a meno. E vi leggo le ultimissime righe. Nella cosiddetta vita di tutti i giorni la verità mi appare così fastidiosa, così losca, che preferisco non averci nulla a che fare. È vero, ci sono istituzioni che difendono il diritto di conoscere la verità, ma chi tutela il diritto di ignorarla? È davvero così impellente informare un amico dei tradimenti della moglie? È necessario che le parole ti amo corrispondano sempre a un sentimento autentico e incorrotto? Ripenso ancora a mio nonno. Una volta, a una cena, lo sentì elogiare la bellezza degli occhi di una donna la cui bruttezza era proverbiale, e vidi quella donna arrossire di piacere. C'è qualcosa di civile, di tenero, nella piaggeria. E sempre dalla lettura vi segnalo una pagina, un incontro di Nuccio Ordine, che è andato a Cambridge a incontrare George Steiner, uno sicuramente dei più grandi e dei più importanti intellettuali viventi. L'ultimo progetto di Steiner è di tradurre Dante, il purgatorio e l'inferno di Dante, cioè la Divina Commedia, in 4 lingue. E Nuccio Ordine ci racconta questa straordinaria giornata con George Steiner, che gli ha parlato di Dante, e questo intellettuale ha compiuto 85 anni, ma anche ha tracciato un po' un bilancio selettivo inevitabilmente della sua vita, della sua carriera, dei suoi desideri, ricordando i suoi amati cani e anche le sue paure, e poi tutti gli studi che sta riscoprendo, come sempre, magari più si va avanti negli anni più si rifanno delle letture. Allora Steiner dice: riscopro Platone, le figure di Giacometti, lo scultore svizzero, mi incantano, amo Haydn e Courbet. Dalla domenica invece il supplemento della Repubblica, un bellissimo secondo me reportage di Paolo Rumiz, che ha deciso di fare il guardiano del faro. Inizia questo racconto perché appunto ha deciso di passare l'estate in un faro dove ci sono pochissime delle comodità che uno ha in città, ed è su un'isola disabitata, però da cui Rumiz vede il mare in tempesta o il mare anche tranquillo, e viene definito un viaggio fuori dal mondo. Quindi un po' sapete che in quest'estate ci sono persino dei posti che offrono dei momenti di disintossicazione tecnologica, perché siamo un po' sempre tutti connessi. Paolo Rumiz ha scelto questa strada di fare il guardiano del faro per un'estate. A proposito di tecnologia, vi segnalo sempre dalla Repubblica l'articolo di Alberto Manguel, Infelicità digitale, e si chiede Manguel: con la tecnologia siamo sempre connessi agli altri, ma abbiamo davvero sconfitto quella che consideriamo forse la nostra grande nemica, la solitudine? Credo che sia una delle ultime segnalazioni che riesco a farvi, sempre dalla Repubblica. Come sapete, alla domenica Walter Siti ha la sua rubrica La poesia nel mondo, oggi è dedicata a Friedrich Hölderlin, uno dei grandi poeti tedeschi. La poesia citata è una poesia del 1805, Metà della vita, e Siti come sempre ci racconta dal suo punto di vista il poeta, e partendo da una poesia. Allora la sintesi è: due diversi momenti dell'anno, l'estate e l'inverno, in due strofe in antitesi che all'amico fragile di Hegel compose da giovane senza un'apparente sintesi. Poi a fine carriera il poeta avrebbe rimosso i tormenti arrendendosi a rime più interessanti. Era appunto l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Una buona domenica da Giulia Crivelli, una buona lettura, perché oggi, come sempre, abbiamo più tempo per sfogliare i giornali.